L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee. Siamo qui per raccontare l'Europa dai suoi mille punti di vista, cerchiamo di contagiare un po' lo spirito europeo, lo facciamo a modo nostro, cercando l'attualità, cercando storie, cercando spunti, cercando le opportunità della nostra Unione Europea. Ogni settimana un viaggio, potete seguirci anche via Twitter oppure via Facebook, sulle pagine dell'Altra Europa, sulle mie personali di Federico Taddia, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oggi partiamo con una bella storia, là, nell'Irlanda del Nord. A voice spoke from the deep earth and echoed in the night. I'm far from captivity, that cell which confines me, neither pain nor torture, nor the powers that consigns me. My name. Quella che state ascoltando è la ballata di Bobby Sands. Oggi parleremo di Bobby Sands e scopriremo chi era Bobby Sands, perché avesse dimenticato la sua storia, il carcere in cui è morto dopo un sciopero della fame, un carcere che è al centro di un importante e anche contestato progetto di riqualificazione. Quello che era un carcere lo si vorrebbe trasformare in un centro per la pace, questo anche grazie a dei fondi europei, perché la cultura passa anche da questi luoghi, simbolo di una storia recente, di una storia tragica, ma che possono diventare anche leva per uno scarto culturale. Questa bella storia ce la racconta una giornalista italiana, esperto di questione nordirlandese, perché è là che vive, autrice di diversi libri, come Il diario di Bobby Sands, storia di un ragazzo irlandese, oppure recentissimo qui Belfast, storia contemporanea della guerra in Irlanda del Nord. Diamo il benvenuto a Silvia Calamati. Ciao Silvia. Salve a tutti. Ci fai tu intanto un ritratto di Bobby Sands? Chi era? Bobby Sands è stato uno dei tanti giovani irlandesi che alla fine degli anni Ottanta ha fatto un'esperienza incredibile. Ricordo che Bobby Sands, anche se è diventato un'icona, in realtà è uno, veramente rappresenta un'intera generazione di giovani che dopo la fine del movimento dei diritti civili, con l'arrivo dei soldati inglesi, ha conosciuto una repressione, così come tutta la sua comunità, che non ha avuto precedenti in Europa. Ricordo che ancora oggi in Irlanda del Nord è in vigore la legge d'emergenza, che ha dato in tutti questi anni, anche durante la guerra, potere eccezionale ai soldati e polizia, per cui un luogo di guerra, un luogo di repressione e di oppressione. Uno degli strumenti di repressione e oppressione è stata anche l'incarcerazione di centinaia e centinaia di giovani irlandesi dal 1971 in poi, con l'introduzione all'internamento senza processo. Mm-hmm. Uno di questi è Bobby Sands, che viene in un primo momento internato in quelli che erano solo degli hangar nella zona appunto del carcere di Maze, insieme a tanti altri giovani. In quel periodo il governo britannico riconosce a questi giovani lo status di prigionieri politico, ed è in questo periodo che Bobby Sands impara a suonare la chitarra e impara la sua lingua, il gaelico. Viene poi successivamente arrestato nel 1976, alcuni mesi dopo la decisione di Margaret Thatcher di eliminare lo status di prigioniero politico. Margaret Thatcher è deceduta poco tempo fa, si è parlato moltissimo di lei. Quello che è stato sottolineato molto poco è stato il ruolo che lei ha avuto in Irlanda del Nord, soprattutto al tempo degli scioperi della fame di Bobby Sands. Mm-hmm. Bobby Sands si trova rinchiuso in uno degli 8 blocchi H del carcere di Roncash, in cui le condizioni sono terribili. quando Bobby Sands arriva, da un mese alcuni detenuti avevano deciso di intraprendere la protesta della coperta, rifiutandosi di indossare l'uniforme del carcere che li avrebbero appunto equiparati a criminali comuni, cosa che loro non sentivano di essere. E dal 76 alla fine del 1980 questi più di centinaia di giovani sono costretti a vivere nudi, con solo una coperta per coprirsi, in celle in cui i muri sono coperti di escrementi, in quanto andare ai bagni significava essere sottoposti a maltrattamenti e pestaggi. In queste condizioni terribili Bobby Sands riesce a far fuoriuscire dal carcere su pezzettini di carta igienica o cartine di sigarette unite insieme messaggi di libertà, di dignità, di amore per il proprio paese, cercando di far conoscere al mondo le condizioni terribili in cui i suoi compagni e lui stesso si trovano a vivere. Dopo un primo sciopero della fame collettivo iniziato alla fine del 1980, il primo marzo del 1981, Bobby Sands inizia un altro sciopero che conduce per 66 giorni. Ricordo che dopo un mese di sciopero, il 9 aprile del 1981, Bobby Sands diventa membro del Parlamento di Westminster a seguito di elezioni suppletive che sono tenute in Irlanda del Nord, per cui Bobby Sands muore da ribelle, muore da uomo libero, però muore anche come membro del Parlamento di Westminster, avendo ottenuto dalla sua gente quello status politico che il governo britannico gli aveva negato. E dopo di lui altri 9 giovani prigionieri irlandesi fanno la sua stessa fine. Questo progetto del carcere di Meath, siamo in Irlanda del Nord. Silvia, una cifra ingente, si parla di 300 milioni di sterline stanziate appunto per riqualificare questo carcere, di fatto trasformarlo in un centro per la pace, un progetto che nel complesso darà lavoro a circa 5.000 persone, un progetto importante? Bisogna chiedere una cosa, innanzitutto il progetto riguarda l'area del carcere, non tanto il carcere, è ovviamente un business enorme perché si tratta di un'area grandissima. Ricordo che quando si parla di long cash, quando si parlava di long cash, dal momento che è stato appunto abbattuto, si parlava di 8 blocchi H. Io ho avuto occasione di visitarlo diverse volte, sia prima che venisse chiuso, andando a trovare un ragazzino di 16 anni che c'era finito dentro dopo essere stato sottoposto a pestaggi e maltrattamenti per una settimana e costretto a firmare un'autoaccusa, sia una volta chiuso il carcere e dopo la liberazione di tutti i prigionieri. È un'area molto estesa, ma il progetto riguarda non solo l'area specifica del carcere, ma anche tutta la zona circostante. È un business enorme che vuole trasformare quell'area. Il carcere in sé non fa parte, diciamo, del progetto, vuole trasformare l'intera area in una zona residenziale con un enorme stadio per partite internazionali di rugby e di calcio gaelico, centri abitativi di un certo livello, aree verdi e tutta una serie di servizi che ovviamente sono funzionali al progetto. Mm-hmm. Questa è l'idea di base. Il progetto doveva partire ancora tempo fa, ma si è fermato appunto per la crisi economica, certo, che anche l'Irlanda del Nord sta attraversando. Un'ultima domanda: progetto contestato o progetto ben accolto dai cittadini? Beh, ha suscitato sicuramente una grossa controversia, perché dal punto di vista degli unionisti il tenere uno dei blocchi H significherebbe glorificare l'ira, glorificare il passato. Io posso dire che ho deciso di scrivere qui Belfast proprio quando ho saputo della notizia della distruzione del carcere, perché distruggere long cash per me è stato come se decidesse di distruggere Bergen-Belsen o Mauthausen o Auschwitz. È un luogo che doveva essere tenuto in piedi, non tanto come grido d'accusa, ma per far conoscere la storia. Quello che gli unionisti vogliono è non parlare più di Bobby Sands, non parlare più di quel periodo. Oppure di Bobby Sands si continua a parlare, si continuano a scrivere canzoni. Bobby Sands è diventato un punto di riferimento per i prigionieri che lottano in tutte le carceri del mondo, dai curdi ai palestinesi, per cui la memoria storica che il governo britannico e forse gli unionisti vogliono nascondere, purtroppo ha un peso per loro, un peso così forte che non basterà la distruzione del carcere per dimenticare quello che Bobby Sands e suo compagno hanno vissuto. Grazie davvero a Silvia Calamati, qui Belfast, storia contemporanea della guerra in Irlanda del Nord, Red Star Press. Ciao Silvia, buon lavoro, grazie. Arrivederci a tutti. Europost-it. A Ventotene per vedere il passato e il futuro dell'Europa. Il manifesto di Ventotene ha ispirato più di 60 anni fa la nascita dell'Unione Europea. Proprio questo luogo così simbolico, lunedì 27 maggio, ospiterà 500 giovani studenti delle scuole superiori per una delle tappe più particolari dell'iniziativa Dialoghi con i cittadini, promossa dalla Commissione Europea. I giovani incontreranno il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, con cui discuteranno di crisi economica, federalismo, allargamento, futuro e passato dell'Unione europea. Siete interessati a partecipare al dibattito? Potete farlo anche a distanza via Twitter e porre domande utilizzando hashtag EUDEB8. Per le altre informazioni, ec.europa.eu. Inizia domani la settimana della gioventù, sarà celebrata nei 33 paesi europei da domani fino al 2 giugno, una serie di eventi in Italia, sono un centinaio in programma, youthweek.it il sito per conoscere l'intero programma. Si parla di mobilità, si parla di opportunità, si parla di possibilità per i giovani, veramente tante iniziative, tanti convegni. Vi consiglio di andare a sfogliare il programma perché ogni regione è coinvolta con dibattiti, con incontri, con momenti di approfondimento. Si parla anche di Erasmus e lo facciamo. La musica che state ascoltando è la colonna sonora di un video molto particolare, l'ho già pubblicato sia in Twitter sia nella nostra pagina di Facebook dell'Altra Europa. È un video intitolato Questo è il mio Erasmus, 9 mesi di viaggio, è un racconto per immagini, l'ha realizzato Alex Torres, che è uno studente spagnolo arrivato a Napoli per studio, si è innamorato della città, si è innamorato dell'Italia e il suo progetto Erasmus ha scelto di raccontarlo attraverso questo videoclip. Ed Alex è qua con noi, ciao Alex, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ex giocatore professionista di basket? Sì, giocatore professionista e adesso tirocinante in Italia. Accidente, quindi ma hai mollato il basket per lo studio o continui a portare avanti entrambe le attività? Sì, io era giocatore professionista alla Spagna e una volta mi è arrivata questa opportunità di fare una mobilità in Italia. E per questo ho avuto di fare questa scelta di lasciare pallacanestro e andare all'Italia per avere una esperienza diversa. Uh-huh. Allora, Giorgio De Luca, che lavora con me al programma ed è di Napoli, ha guardato il video, lui innamorato della sua città, e ha detto guarda qua, questo si è fatto 9 mesi di vacanza. E in verità, qual era il messaggio che volevi raccontare attraverso questo video? Ovviamente nel video non stanno le immagini di quando sono andato all'università perché alla fine per me è stato un anno in cui ho fatto tanti nuovi amici, ho imparato tante nuove cose della cultura d'Italia, della cucina, di conoscere l'Italia, di andare in viaggio a diverse città, che alla fine per me il video rappresenta questo, un'avventura di 9 mesi in cui io... non lo so, in modo educativo, in modo culturale, in modo personale ho avuto una grande crescita. Certo. Cosa significa per te, visto che l'hai vissuto, visto che hai conosciuto anche tanti altri studenti, immagino che hanno avuto la possibilità di fare l'Erasmus. Cioè l'Erasmus, noi tante volte abbiamo detto che è una delle vere colonne portanti dell'Unione Europea. Tu dopo questa esperienza ti senti più europeo? Sì, sicuramente, perché il modo in cui adesso io penso è più aperto di prima di arrivare in Italia. Perché per esempio a Napoli io ho conosciuto tante persone che sono di diversa nazionalità, che mi hanno raccontato la sua forma di pensare o di vedere la vita, e questo penso che ti fa aprire un po' la forma di pensare. Mm-hmm. Alex, chiudiamo con la domanda che facciamo a qualsiasi studente Erasmus che passa per l'altra Europa: hai trovato la fidanzata? No. Ok, va bene, insomma, non siamo per il 100% delle risposte affermative. Sappiamo che è una delle conseguenze più belle dell'Erasmus e quindi ci piace sondare. Ricordiamo il video, Facebook e Twitter lo trovate sulle nostre pagine. Questo è il mio Erasmus e lui è Alex Torres. Ciao Alex, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao. Europost-it. La festa dei formaggi rotolanti. L'ultimo lunedì di maggio a Cooper's Hill, nel villaggio di Brockworth, nel Gloucestershire, c'è questa strana tradizione. Si fa rotolare giù da una collina una forma di Gloucester cheese, il formaggio tipico di questa zona a sud-ovest dell'Inghilterra, e un gruppo di atleti la seguono correndo, cadendo e rotolando. Ovviamente è una gara e vince chi riesce a prendere la forma rotolante al volo oppure arriva per primo alla fine della collina. Questa gara ha almeno 200 anni e si disputa ogni anno con i conseguenti feriti e contusi. Persino durante la guerra si è tenuta lo stesso, utilizzando una forma di legno anziché il formaggio, per non sprecare il cibo che era razionato. L'evento attira centinaia di persone da tutta l'Inghilterra e se volete vedere anche voi questi intrepidi nella loro opera di rotolamento, trovate informazioni e anche qualche video sul sito ufficiale cheese-rolling.co.uk. Questi sono i nostri post-it, li trovate sul nostro sito, sulle nostre pagine in Facebook e Twitter. Un altro progetto comunitario molto importante che vi vogliamo raccontare, anche perché proprio ieri ha toccato la sua conclusione, è Waves of Legality, un progetto comunitario che riguarda la percezione del ruolo delle organizzazioni criminali e le possibili soluzioni. Un progetto voluto e lanciato dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, un progetto che si è concretizzato in una ricerca per capire quella che è la percezione della mafia e della criminalità nelle giovani generazioni, ma un progetto che ha avuto anche un risvolto concreto con oltre 70 ragazzi e agenti, giovani agenti di polizia di 12 paesi diversi che hanno visitato in questi giorni luoghi significativi legati alla mafia e legati alla lotta alla mafia. Per parlare di questo sondaggio e per parlare del progetto c'è con noi Pietro Galluccio, che è responsabile dei progetti internazionali della Fondazione Falcone. Buongiorno Galluccio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Una ricerca importante, una ricerca, è stato un questionario che avete proposto a diverse centinaia di ragazzi in tutta Europa, giusto? Sì, il questionario è stato elaborato nell'ambito di questo progetto che citavate prima, Waves of Legality. È stato elaborato da un gruppo internazionale, tutti i partner di questo progetto, e poi è stato messo online in diverse lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, greco, albanese, macedone, e appunto poi abbiamo raccolto circa un migliaio di risposte, di cui 900 sono state considerate poi ai fini statistici. Siamo in collegamento con Pietro Galluccio, responsabile dei progetti internazionali della Fondazione Falcone. Galluccio, avete sottoposto questo questionario, erano domande appunto sulla percezione che i ragazzi hanno della criminalità E non solo, mi piace molto anche l'aspetto legato alle conseguenze e alle cause del crimine che loro vedono, appunto, che consapevolezza hanno di questo processo. Cosa raccontano i dati? Che cosa fotografano? Ma innanzitutto ci dicono che c'è una notevole differenza nella percezione di ciò che il crimine concretamente fa nei diversi paesi. L'unico dato comune è quello della sostanza di prova e di sostanze stupefacenti, che è riconosciuta come una delle principali attività criminali dalla stragrande maggioranza, sia degli italiani che degli stranieri. Ma già al secondo posto arrivano delle grosse differenze, perché gli italiani controllo del territorio e controllo dell'attività pubblica, mentre gli stranieri parlano di quello che normalmente da noi è considerata criminalità comune, furti d'auto, furti e rapine in generale, ecco, questo tipo di attività. Quindi è chiaro che c'è una diversa percezione. È anche interessante notare che per gli stranieri una delle principali attività, tenete presente che gli stranieri che hanno risposto appartengono molto ai paesi dell'est, è legata al riciclaggio di denaro, per cui la criminalità viene vista come sostanzialmente coloro che commettono attività criminali all'estero e poi reinvestono nei paesi dell'est. Questa è una grossa differenza rispetto agli italiani, che invece, appunto, come dicevo, parlano di un controllo del territorio, per cui è chiaro che gli italiani hanno molto più chiara la percezione di una presenza fisica, materiale, nelle nostre città del crimine organizzato. Certo. Gallucci, avete fatto una domanda anche chiedendo ai giovani la loro disponibilità, diciamo, la loro volontà a mettersi in gioco per questo percorso di lotta alla criminalità. Cosa hanno risposto? Un attimo, la stiamo perdendo. Al telefono si sta muovendo? Pronto. Eccola, adesso la sentiamo bene. Dicevo, questo è uno dei dati più preoccupanti per alcuni aspetti, perché sostanzialmente solo un quarto, se consideriamo l'intero campione, si dice non soltanto preoccupato del fenomeno, ma anche pronto a in qualche modo impegnarsi per combatterlo. Ed è un dato tra l'altro ancora più preoccupante se si tiene presente che tra i giovanissimi questa percentuale è ancora più bassa, mentre è un po' più alta per coloro che hanno più di 30 anni. Sostanzialmente emergono due elementi negativi, e cioè che mentre appunto la maggioranza dei giovani, sia italiani che stranieri, considerano il crimine organizzato un problema che in qualche modo comunque va affrontato, dall'altro non si considerano all'altezza. Cioè, molto indicativo il fatto che circa il 40% dei giovani dica sì, è un problema reale, ma sono altri che devono affrontarlo, che hanno gli strumenti per farlo. Mm-hmm. In questo probabilmente c'è molta sfiducia, molta senso di, diciamo, di incapacità, di non percezione del proprio ruolo positivo che ci può essere poi in realtà nella lotta al crimine organizzato. Certo, un'ultima domanda, Galluccio, avete fatto vivere anche a tanti giovani provenienti dall'Europa l'esperienza di essere fisicamente sui luoghi. Il progetto si è articolato lungo un anno, che si è sostanzialmente concluso proprio in questi giorni in occasione delle manifestazioni per il 21° anniversario della strage di Capaci. Un gruppo di 70 ragazzi, come dicevate voi in apertura, non soltanto studenti, ma anche per esempio giovani agenti di polizia tedeschi o ricercatori universitari albanesi, sono stati in Sicilia per 2 settimane, durante le quali hanno incontrato personaggi chiave della lotta alla mafia come la Fondazione Falcone la intende, quindi i magistrati, il presidente del tribunale, nonché collega e amico di Giovanni Falcone, il presidente Guarnotta, ma anche giornalisti, rappresentanti di associazioni impegnate nel promuovere la cultura della legalità. E poi hanno anche visitato alcuni luoghi simbolo della storia della mafia e della lotta alla mafia, come il Giardino della Memoria dedicato a Piccolo Di Matteo, che fu ucciso per essere il figlio di un pentito. E poi ovviamente hanno concluso il 23 con noi, hanno partecipato a questa grande marcia con 20.000 giovani palermitani e non solo, per ricordare Giovanni Falcone. Perfetto, grazie davvero Galluccio. Ricordiamo il sito della fondazione, che è www.fondazionefalcone.it, per tutte le informazioni relative alle vostre attività. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Europostit. La tua Europa. Conosci i tuoi diritti di cittadino europeo. Avete domande di natura giuridica? Credete che i vostri diritti di cittadini europei non siano stati rispettati? Oppure volete sapere se esiste una normativa europea che vi tuteli, magari per i vostri viaggi o perché volete trasferirvi in altri paesi? Potete porre tutte queste domande a un avvocato esperto, che vi offrirà consulenza giuridica gratuita e personalizzata. Il servizio si chiama La tua Europa ed è offerta presso la rappresentanza della Commissione europea a Roma. È possibile fissare un appuntamento per una consulenza scrivendo al seguente indirizzo email: com-rep-it-info@ec.europa.eu, indicando nell'oggetto consulenza giuridica. Potete anche consultare il servizio online relativo alla tua Europa andando su europa.eu/youreurope/advice e fare le richieste tramite il modulo online. Köln sind ja nur die Spitze des Eisbergs, die bekannt ist. Du und der Hostel, Moralapostel. Ich glaube eher, ich bin die Abteilung Wahrheit. Noch so eine Floskel, aus tierisch dick gebacken und nimmst gern noch mal den Mund voll. Doch jetzt gibt's auf die Fresse und zwar außerordentlich schwungvoll. Für dich hieß es jahrelang hoch die Tassen, die Finanzbehörden haben dich ordentlich Scheiß machen lassen. Was der Halbgott in Rot-Weiß macht, es gern noch sauber, Mann. Quella che state ascoltando è una canzone satirica, una canzone tedesca che prende in giro il presidente delle Bayer Monaco, che ha ammesso di avere avuto 10 milioni di euro nascosti in un conto svizzero, ed è diventato uno strano volano, però, perché c'è un effetto, ha causato un effetto dirompente di 225 persone che solo a Berlino si sono autodenunciate. Lo Stato ha incassato 6 milioni di euro in più. Abbiamo scelto questa storia perché questa settimana si è parlato tantissimo di, per fortuna, di lotta all'evasione fiscale. Lo si è fatto grazie al Consiglio europeo, che ha discusso e che ha proprio messo su carta le conclusioni di questo lavoro, di questa volontà di combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale, perché, così hanno scritto in un documento ufficiale, limitano la capacità dei paesi di conseguire un gettito e di attuare le loro politiche economiche, quindi proprio l'evasione come un furto allo Stato. E tra i punti che hanno sottolineato nelle conclusioni c'è proprio una sorta di volontà di dare priorità agli sforzi intesi ad ampliare lo scambio automatico di informazioni a livello comunitario. Questo è il primo punto su cui si vuole lavorare, e dicono è importante continuare i lavori in tutte le sedi dell'Unione sull'abolizione delle misure fiscali dannose. Quindi lotta all'evasione, ma lotta anche a quelle che sono misure fiscali considerate non giuste. Quindi proprio la volontà di entrare a gamba tesa contro l'evasione fiscale. Questo è quello che chiede l'Unione Europea. Quello che sta succedendo in Germania è questo strano effetto di autodenuncia. Volevamo capire appunto cosa sta accadendo, e per farlo abbiamo invitato Petra Reschi, giornalista e scrittrice tedesca. Ciao Petra, ben ritrovata. Ciao, buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Tra l'altro abbiamo appena parlato anche della Fondazione Falcone, un tema che tu conosci bene, quello legato alla mafia. Hai sentito anche della percezione della mafia e della criminalità all'estero? Tu hai analizzato tanto di quella che è anche la percezione proprio del sistema mafioso in Germania, quindi credo che sia un tema a te molto sensibile e di fatto un tema contiguo a quello di cui stiamo andando a parlare. Cosa sta succedendo in Germania? Il presidente del Bayern è diventato testimonial per la lotta all'evasione? Beh, diciamo, lui è diventato un simbolo per, tra parentesi, questi ricchi che rubano ai poveri in un certo senso, no? Dunque bisogna tener conto che questo fatto dell'autodenuncia, intanto, in effetti quando un tedesco si autodenuncia di reati, cioè di aver nascosto dei soldi da qualche parte, lui in effetti non viene punito, dunque deve solo pagare ovviamente le tasse sottratte più un 6% per ogni anno di sottrazione, e poi se la cifra va oltre i 50.000 euro deve pagare un plus di 5% su tutta la somma. In teoria ovviamente questa è una cosa che viene utilizzato da tanti politici tedeschi anche nella campagna elettorale, perché tutti dicono sempre allora bisogna abolire questa cosa, altri lo difendono, ed è interessante per Hoeneß in questo caso, perché negli ultimi anni, nel 2010 mi pare, hanno un po' cambiato la legge, ma solo per quanto riguarda le condizioni dell'autodenuncia. In questo caso tu non puoi più autodenunciarti se tu hai avuto notizia che già c'erano indagini contro te in corso. Radio 24 e il Festival dell'Economia di Trento vi danno appuntamento dal 30 maggio al 2 giugno per discutere di sovranità in conflitto. 9 in punto, Salva Danaio, Focus Economia, l'altra Europa, si può fare, nessun luogo è lontano e incontri vi danno appuntamento in diretta dalla Piazza Pasi di Trento. Radio 24 al Festival dell'Economia di Trento. E lo avete anche appena sentito dal promo, sabato prossimo saremo in diretta da Trento al Festival dell'Economia nella nostra postazione, una puntata live con alcuni degli ospiti più significativi del festival per parlare dello strettissimo rapporto tra Europa ed economia. Adesso invece stiamo parlando dello strettissimo rapporto tra fisco e Germania, lo stiamo facendo con Petra Reschi, ci stava appunto parlando di questo effetto Hoeneß, così è stato battezzato, vero Petra? Sì. Ma ascolta, dal punto di vista dell'opinione pubblica, abbiamo visto tanta satira, abbiamo visto tante vignette, abbiamo visto tanto prendere in giro anche il presidente del Bayern, ma in verità qual è stata la reazione dei cittadini? Ma c'era comunque una grande indignazione ovviamente, perché la cifra non era così banale e poi in un momento di crisi europea, cioè, anche se i tedeschi stanno in relazione agli italiani meglio, però comunque se, ovviamente è una cosa molto criticabile, è stato molto criticato questa cosa, anche perché viene sfruttato ovviamente anche subito da alcuni partiti per denunciare, utilizzare questo come tema della campagna elettorale che inizierà tra un po' in Germania. Dunque, cioè i ricchi praticamente che rubano ai poveri in un certo senso, ovviamente è anche un po' inconcepibile, perché tu commetti un reato e non sei punito, mm-hmm. E questo ovviamente è un problema. Il fatto che non solo oltre a Hoeneß, in seguito a questo suo caso, ma anche al fatto che in seguito del fatto che il fisco tedesco compra spesso questi cosiddetti CD con le date di investitori tedeschi che hanno investito i soldi nelle banche all'estero, e dunque già con questo c'è un grande rischio che il fisco tedesco si renda conto dove hai nascosto i soldi. E poi anche il fatto che sia Liechtenstein che l'Austria si preparano a togliere anche loro, da quello si dice, il segreto bancario, dunque di di essere un po' più flessibile nella comunicazione. Dunque è un po' di queste oasi sono stati insomma in pericolo, non è più così facile nascondere dei soldi dal fisco tedesco. Dunque anche per questo tanti hanno approfittato di questa occasione di fare questa autodenuncia. Certo, ricordiamo 225 persone solo a Berlino, ma 700 negli altri Länder hanno dichiarato di avere un conto all'estero, insomma iniziano a essere numeri significativi. Sì, sì, in tutto, cioè è una cosa veramente, perché all'inizio questo fatto di autodenuncia era pensato in un tempo in cui non c'era internet, non c'erano CD in vendita, dunque il fisco cosa poteva fare? In Germania pensavano meglio che creiamo una possibilità indolore per avere un po' di soldi in più, dunque questa era l'occasione. Però oggigiorno si dice è assurdo, bisogna aumentare le pene veramente. Poi per anche per Hoeneß in questo caso, quando uno ha avuto l'informazione che c'erano, in questo caso se mi ricordo bene erano giornalisti che hanno indagato per questa cosa, dunque non è proprio del tutto questa presunta autodenuncia. E un altro caso, quello che viene spesso citato, è anche quando qualcuno ha ereditato dei soldi all'estero, in Svizzera per esempio, dunque lui non dovrebbe, così si dice, non dovrebbe essere punito per gli errori che hanno commesso i suoi genitori o nonni. Dunque se lui autodenuncia è giusto che non abbia una pena. Dunque certo, ci sono dei casi un po', però comunque in Germania non viene considerato bene Hoeneß per questa storia ovviamente. Petra, ci stiamo per salutare, un'ultima domanda: a cosa stai lavorando in questo periodo? Sto scrivendo un altro libro, però in questo caso scrivo un romanzo sulla mafia. Ok, aspettiamo, allora vorremmo essere tra i primi a presentarlo, lo sai, quindi bene, aspettiamo grazie. Notizie. Grazie, buona giornata, ciao. Grazie a voi, ciao. Finisce qua questa puntata dell'Altra Europa, un grazie a tutta la squadra, Miriam Lucchetti e Margherita Ina, che come hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo l'appuntamento mercoledì sera, mercoledì 29, per il nostro speciale dalle 21 alle 23, L'Emilia che riparte, un anno dopo, due ore di storie, di voci, di testimonianze per raccontare questa terra a 12 mesi dal terremoto. Vi aspettiamo anche con le vostre storie, che potete scrivere all'indirizzo email emiliacheriparte@radio24.it. Ancora ciao, ancora grazie da Federico Taddia. L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.